La ZTL diventa Z ambientale, da qui al 2025 le auto fuori norma, cioè progressivamente inquinanti, saranno messe di fronte a una scelta. Potranno scegliere di avere un bonus per la mobilità per rinunciare all'auto oppure dovranno pagare il parcheggio per accedere alla ZTL. Quindi chiediamo collaborazione perché gli incentivi che abbiamo previsto attraverso il bonus mobilità sono molto importanti, potranno essere utili per usare gratuitamente l'autobus, il bike sharing, il car sharing, i taxi, tutti i mezzi alternativi di trasporto, ovviamente l'autobus, che permetteranno una scelta consapevole a favore dell'ambiente senza eccessivi disagi. Chiediamo quindi ai cittadini di darci una mano a questo provvedimento. Gli introiti degli abbonamenti andranno tutti per incentivare il bonus. Il bonus permetterà di scegliere mezzi alternativi dell'auto. Quindi è un provvedimento al quale crediamo molto, ma è necessario in un quadro delle azioni, dell'insieme delle azioni che bisogna fare per garantirci uno sviluppo sostenibile, prima di tutto dal punto di vista ambientale e dell'aria che respiriamo. Stiamo facendo il progetto del tram, stiamo investendo molto sul trasporto pubblico. In città abbiamo piantato molti nuovi alberi, altre migliaia li pianteremo nel prossimo provvedimento che vi annuncerò, ma abbiamo bisogno di comprendere tutti che non bastano i provvedimenti dall'alto, occorre che tutti collaborino cambiando un po' gli stili di vita e i loro comportamenti. È evidente da quando c'è il bike sharing e il car sharing che ci può essere un uso diverso dell'auto, non legato al possesso per forza, e è evidente che ne guadagniamo tutti in bellezza della città e in salute della nostra città.